Letture di Radio 24. Un investigatore non può permettersi di scriverlo nel suo rapporto. Se sta cercando una persona scomparsa, temuta morta dalla famiglia, e sono ormai mesi che non ha uno straccio di indizi o tracce da seguire, arriva il momento in cui anche lui è costretto a ricorrere a metodi poco tradizionali. Non è la trama di un film, è quanto accade, più spesso di quanto si immagini, nei fatti di cronaca che da mesi troviamo su tutti i giornali. Non è stato riscontrato niente di anomalo. È la frase che sancisce la morte di un'indagine, precludendo ogni ulteriore sforzo investigativo. La si trova alla fine di centinaia di verbali, casi di omicidio, ma spesso di scomparsa. Quando le piste evaporano in una nebbia confusa e le tracce improvvisamente svaniscono sotto gli occhi. Basta fare un giro per gli archivi di una procura per trovarla in calce all'ultima pagina dei fascicoli sui casi irrisolti. Quella frase sul foglio e poi il vuoto, destinati a riecheggiare nel silenzio di un baratro bianco. Niente di anomalo, che nel linguaggio volutamente vago di certe formule contiene la spietata ammissione di impotenza davanti all'ignoto. Perché è lì, nell'anomalia, che di solito si cela la soluzione di un giallo. In quel dettaglio magari minuscolo che apre una crepa nel muro dell'apparenza, lasciando intravedere cosa si nasconde dietro. Un colpevole e, se si è fortunati, la verità. La traccia biologica, un'impronta, poche parole intercettate da una microspia. Senza questi errori sarà difficile risalire a chi ha commesso il fatto o a cosa sia realmente accaduto. E allora ci si aggrappa a tutto. E può accadere che un investigatore esasperato decida di considerare l'aiuto di un medium o di un sensitivo. Di loro non si fa menzione nei rapporti ufficiali. Basterebbe questo per inficiare una prova e mandare all'aria un'indagine. Ma accade sempre più spesso di quanto si immagini. Per un poliziotto è una specie di fallimento, ma a una madre che ti domanda ogni giorno che fine ha fatto la sua bambina, è difficile rispondere che si preferisce non dar credito a certe cose, che la procedura non lo prevede, che è irrituale. Anche nel caso di Yara Gambirasio sono all'opera centinaia di medium e sensitivi o presunti tali. Molti sono mitomani, altri cercano di approfittare della situazione, perché qualcuno ogni tanto ci azzecca. Andando per esclusione, è probabile che succeda anche per la ragazzina di Brembate, sempre che alla fine si riesca a giungere a una risposta. La più famosa chiaroudente, così ama definirsi, d'Italia, è Maria Rosa Busi, bresciana. Grazie alle sue capacità, fece ritrovare il corpo di Chiara Bariffi. La rinvennero i sommozzatori nell'Ario, nel punto esatto indicato dalla sensitiva. Da allora la sua fama è cresciuta parecchio. Certo, non sempre ci ha visto giusto, come quando dichiarò che il tesoro del duce era sepolto al Vittoriale o che il piccolo Tommaso Onofri era vivo e con una madre che si prendeva cura di lui. Nel caso dei fratellini scomparsi a Gravina di Puglia, disse che si trovavano in fondo a un burrone. Era vero, anche se si trattava della cisterna di una casa abbandonata. Nessuno prende posizione per difenderla o screditarla definitivamente, perché in fondo, in pochi, vogliono davvero avere a che fare con questa materia. I sensitivi continuano a cercare Denise Pepitone, la bambina di Mazara del Vallo. Erano le 12 di una giornata di fine estate nel 2004. La piccola si trovava per strada, davanti a casa sua. Angela Celentano, scomparsa nell'agosto del 1996, era a un picnic insieme ai genitori. A ben guardare, si svanisce nel nulla sempre in posti familiari, non lontani dalle persone care. La strada della palestra per Yara, o quella che conduceva all'abitazione della cugina per Sara Scazzi, ed è lì che spesso le indagini si arrestano, nell'impossibilità di varcare una barriera invisibile. Di solito viene usata una frase a beneficio dei cronisti per spiegare ciò che non si può dire, non si vuole dire. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi. Parole che invece di interrompere la speranza dei familiari la alimentano, edificando quel dubbio che li imprigionerà per il resto della vita. E quei genitori non rinunceranno mai ad ascoltare la rivelazione del sensitivo di turno. Ditemi almeno se è morta, diranno. Alcuni arrivano ad augurarselo perché vogliono solo piangere. L'unico desiderio non è rassegnarsi, ma smettere di sperare, perché la speranza uccide più lentamente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Da Brembate al delitto del lago, i sensitivi, ultima risorsa, di Donato Carrisi, pubblicato dal Corriere della Sera di giovedì 6 gennaio. Nel Regno Unito si sono registrate negli ultimi anni 5.000 conversioni alla religione islamica ogni anno, in Germania e in Francia 4.000. 50.000 sudditi della regina Elisabetta sono di religione musulmana e le conversioni sono in larga parte fatte da donne, con un'età media di 27 anni, altamente scolarizzate. Il motivo? Vogliono cambiare vita. Con la sorprendente fretta di chi deve compiere un atto che nessuna forza può impedire, 50.000 sudditi di Sua Maestà hanno deciso di abbandonare la propria fede per abbracciare l'Islam, raddoppiando nel giro di meno di 10 anni il numero dei convertiti britannici. Sono soprattutto persone che cercano un'esistenza spirituale, che non ne possono più dell'edonismo che riempie la loro esistenza, sussurra l'imam Aymal Masrour. Uno studio prodotto dall'Istituto di ricerca Faith Matters rileva che dall'11 settembre 2001 le conversioni sono state più di 5.000 all'anno, compresa quella di Lauren Booth, sorella di Cherry Blair, contro le 4.000 registrate in Francia e in Germania. Una percentuale molto bassa, quasi irrisoria, sceglie la strada dell'estremismo. Gli altri vogliono solo cambiare vita. Si tratta soprattutto di donne altamente scolarizzate, con un'età media di 27 anni, esattamente come Lynn Ali, ex DJ di Dagenham. Finalmente ho scoperto chi sono. Pallida, occhi scuri, un velo rosa a coprirle il capo, racconta di aver avuto una crisi di rigetto. Bevevo, incontravo ragazzi, mettevo vestiti provocanti, insomma ero infelice. Una sera è tornata a casa che le girava la testa, aveva voglia di vomitare. Si è infilata sotto il lenzuolo e ha affondato la faccia tra i cuscini, rannicchiata. Ho sentito che dovevo cambiare. Adesso sono felice di pregare 5 volte al giorno e di andare in moschea. Non sono più la schiava di una società corrotta. Sono 100.000 gli inglesi che la pensano come lei. Il venerdì mattina il colonnato della moschea di Regent's Park è pieno di fedeli. Arrivano da Baker Street, in piccoli gruppi, portano abiti lunghi e copricapi di lana. Molti sono uomini bianchi, nati a Londra, educati come cristiani. Cercavo regole vere e volevo un punto di riferimento capace di aprirmi il cuore. Ho trovato l'Islam. Non mi ha convinto nessuno, ho fatto tutto da solo. Farouk Ali, nato Tobia Greenwood, ha 17 anni, i brufoli e un accenno di barbetta rossa. Arriva alla moschea accompagnato da Aissa, nato Robin Seymour, 16 anni, un cafetano azzurro e le ciabatte. È come se non si accorgesse della pioggia sottile che gli riempie il viso. Sono un amico di Farouk, è stato lui a mostrarmi la strada. Ero inquieto, mi risuonava in testa la poesia di Kadhafis, quella che invita a non sciupare la vita fino a farne una stucchevole estranea. Allah è stato la risposta. Farouk Tobia viene risucchiato dalla folla del colonnato. Sua madre è disperata. Da quando si è convertito non gli rivolge più la parola. Il padre ha minacciato di chiamare la polizia. Pensano che mi abbiano fatto il lavaggio del cervello. E in un certo senso è vero. Allah me l'ha pulito. Mi ha reso tutto più chiaro. Ride. Anche la famiglia di Aisha Uddin, di Birmingham, ha provato a fermarla. Ma l'Islam ha catturato i miei occhi fin da bambina, persone gentili, discrete, capaci di guardarsi nell'anima. L'hijab delle donne, per esempio, esalta la possibilità di cercare la propria bellezza interiore. Altro che gabbia, è perfetto. La mia famiglia dica quello che vuole, non mi importa. Piccole fratture in un paese in cui l'islamofobia cresce allo stesso ritmo delle conversioni. Le iscrizioni alla English Defence League, partito deciso a cacciare i musulmani dalla Gran Bretagna, sono passate da 1.500 a 40.000 in 3 mesi. Sarah Joseph, inglese convertita all'Islam, direttrice del magazine ML, dice che il problema è rinchiuso in 5 parole. Io sono meglio di te. Chiunque lo dica o lo pensi, per questione di razza o di religione, compie un imperdonabile atto di superbia. Lasciamo che sia lo spirito a parlare. Si sentivano voci orfane che reclamavano docilmente il loro posto in qualche luogo, perché dalle nostre parti lo spazio era finito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'Islam fa proseliti in Inghilterra, basta consumismo, di Andrea Malagutti, pubblicato dalla Stampa di giovedì 6 gennaio. Il repubblicano John Boehner è stato eletto nuovo presidente della Camera americana. Piange al momento del passaggio di consegne il nuovo presidente della House of Representatives mentre riceve il simbolico martello dall'uscente italo-americana Nancy Pelosi. Dopo 2 anni cambia il colore della terza carica dello Stato americano e il cuore politico torna a battere profondamente a destra, come ci racconta Vittorio Zucconi in questo articolo. Nell'aula dove affluiscono da 2 secoli le ondate delle pulsioni popolari più tumultuose della nazione, la Camera dei rappresentanti, che si trova appena ogni 2 anni, batte il nuovo cuore della politica americana e batte forte a destra. Ma è una destra appunto americana, dunque federalista, libertaria, antigovernativa, ma soprattutto ferocemente, fanaticamente devota alla Costituzione. Sperando che i deputati non si confondano, come ha fatto il nuovo speaker, il presidente della Camera John Boehner. Quando ha letto la dichiarazione di indipendenza, tutti gli uomini sono creati uguali e dotati degli stessi diritti, scambiandola per la Costituzione, we the people, noi il popolo degli Stati Uniti. Almeno per le prime settimane, da quando la Camera comincerà i lavori legislativi fra 20 giorni, la nuova monumentale maggioranza repubblicana prodotta dalle elezioni del 2 novembre scorso, con 242 seggi contro 193, dovrà comunque pagare il conto retorico con i propri elettori e soprattutto con i movimenti del Tea Party, per fare sostanzialmente una cosa e una soltanto: cercare di demolire tutto quello che la presidenza Obama e la maggioranza democratica uscente e distrutta avevano fatto. A cominciare dall'odiosa, per loro, e incostituzionale legge che impone a tutti i cittadini di dotarsi di assicurazione sanitaria. La giornata sotto la cupola neoclassica del Campidoglio sembrava il primo giorno di scuola in un liceo, con l'eccitazione delle facce nuove, i volti rabbuiati dei bocciati, l'euforia dei promossi, 93 deputati alla prima legislatura su 435, un quarto quasi. La ringhiosa felicità di aver strappato il martelletto del potere all'odiata speaker uscente, l'italo-americana Nancy D'Alessandro Pelosi, la prima donna e prima italiana in quella carica, e averlo consegnato al nuovo presidente dell'Assemblea, John Boehner, figlio di un taverniere di Cincinnati con 12 figli, passato dallo strofinaccio con il quale puliva il pavimento del saloon alla terza carica della Repubblica. Ma come sempre nella storia della politica legislativa di ogni parlamento, già il rumore della macchina per fare le salsicce, come Otto von Bismarck definiva le leggi frutto di compromessi e di solenni principi triturati dalla realtà, si cominciava ad avvertire. E con l'inevitabile salsamenteria delle promesse elettorali e dei fervori movimentisti, si disegna il profilo di nuove delusioni e di nuovi, futuri ribaltoni elettorali. La maggioranza di destra è una maggioranza inquieta che porta dentro se stessa i germi della propria autodistruzione. Dallo stesso John Boehner fino al battaglione degli eletti grazie alla spinta del partito antistato guidati da Rand Paul del Kentucky, figlio del senatore Ron Paul e primo caso di padre e figlio seduti nelle 2 camere, i ribelli del tè, si intravedeva come alla fine saranno gli abili salumieri e non i puri e duri del fondamentalismo anti-obamista a vincere la guerriglia delle leggi. La cancellazione dell'esecrata riforma della sanità sarà votata alla Camera, ma si fermerà nell'Aula del Senato, dove i democratici hanno mantenuto una maggioranza per 53 a 47. La ferma promessa, ripetuta ben 2 volte nel nuovo contratto con l'America, addirittura un pledge, un giuramento, di tagliare 100 miliardi dal bilancio federale per limitare il mar rosso del deficit, non sarà mantenuta perché le voci più pesanti di spesa, come il conto da 720 miliardi per il Pentagono, sono per la destra vacche sacre e nessuno osa toccare la pensione e la sicurezza sociale per anziani. Se andar bene, il taglio potrà essere al massimo di 50 miliardi, mentre il provvedimento che più stava a cuore ai repubblicani, il rinnovo dei tagli fiscali varati da Bush 9 anni or sono, è già stato rinnovato, grazie a un compromesso fra i partiti, alla fine del Parlamento uscente. Un governo che fa poco, dunque fa pochi danni, secondo una Costituzione, non la dichiarazione di indipendenza come si è confuso il nuovo leader della Camera, che nella ruvida, diffidente saggezza di agrari, bottegai e commercianti settecenteschi fuggiti dall'Europa, vuole prima di tutto non dare a nessuno, non all'esecutivo, non al legislativo, non al giudiziario, il potere di prevaricare sugli altri. Reagan e Clinton, i due presidenti migliori dell'ultimo mezzo secolo, governeranno con successo avendo un parlamento d'opposizione feroce. Sarà proprio quella Costituzione che la destra americana ribelle ora sventola contro Obama, a limitare alla fine le ambizioni di chi la sventola. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Da oggi si legge la Costituzione, ecco il primo ordine della destra, di Vittorio Zucconi, pubblicato da Repubblica di giovedì 6 gennaio.